Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo questa sera a parlare di grafene, scoperto da due chimici premiati col Nobel che lo hanno prodotto per la prima volta con una mina di matita e del nastro adesivo. Si tratta di un foglio formato da un solo strato di atomi di carbonio, legati tra loro a formare degli esagoni. È stato paragonato alla plastica per l'ampiezza delle ricadute applicative che potrebbe avere. È il materiale più sottile del mondo, l'unico bidimensionale, il più conduttivo che si conosca, è 100 volte più resistente dell'acciaio. E proprio in Italia, precisamente all'interno del Parco Scientifico Tecnologico Comonext di Lomazzo, sono state inaugurate le officine del grafene, che sono oggi come oggi il più grande impianto europeo per la generazione di grafene. Produrrà 30 tonnellate l'anno di un grafene con vari livelli di raffinazione, e questa sera vi racconteremo come viene prodotto con l'aiuto di Giulio Cesario, amministratore delegato di Directa Plus, che è la società all'origine di tutta l'iniziativa. Buonasera Cesario. Buonasera a voi. Senta, dunque, quello che poi in realtà esce dai vostri impianti è una polvere o addirittura un liquido che in realtà poi è una sospensione di particelle. Quindi ci spiega esattamente cosa producete, perché abbiamo parlato di fogli bidimensionali, no? Sì, noi produciamo essenzialmente delle polveri che vengono usate come filler dai nostri utilizzatori di business. Cioè un additivo? Esattamente, è un additivo che va all'interno di una matrice o di gomme o di plastiche o addirittura all'interno di tessuti, e che ha questa grande capacità di modificare in maniera drastica le proprietà del materiale, migliorandolo, o addirittura di aggiungere nuove proprietà. Il nostro materiale essenzialmente, e il grafene in generale, lavora su tre grandi aree e in tre grandi settori. È quello di dare conducibilità sia termica che elettrica, e di dare poi soprattutto permeabilità, di ridurre la permeabilità dei materiali ai gas, quindi di renderli più impermeabili. E sì, poi soprattutto aggiunge resistenza meccanica. Ecco, dicevamo, però è una polvere. Come producete questa polvere? Come si coniuga la descrizione che abbiamo fatto di un grafene, che è un materiale bidimensionale, con una polvere? Ecco, questa polvere la si produce secondo due grandi processi tecnologici. Uno che va dal micro al nano, che è il percorso che seguiamo noi, quindi va dalle tre dimensioni alle due dimensioni, e l'altro che invece è l'opposto, quello che fanno alcuni dei concorrenti, che è quello di prendere i singoli atomi di carbonio e metterli assieme finché non si produce un foglio di grafene. Noi partiamo da che cosa? Da una particella di grafite naturale, che è lo stesso materiale che è all'interno delle mine delle nostre matite. Ecco, diciamo proprio che possiamo immaginare la grafite, diciamo così, come un millefoglie, come una di quelle torte in cui ogni strato è un foglio di grafene. In realtà noi quando scriviamo lasciamo giù del grafene praticamente sul foglio. Esatto, noi quando scriviamo la linea nera che lasciamo sul foglio è fatta da miliardi di pacchetti di fogli di grafene. Cosa fa la nostra società? Prende questa grafite naturale, la tratta chimicamente e poi la espone al plasma, quindi la espone ad una temperatura simile a quella della superficie del Sole, tra i 6.000 e i 10.000 gradi centigradi, e esplode questa distanza tra i singoli fogli di grafene, agendo quasi come una grande macchina da popcorn. Ecco, tornando al nostro esempio della millefoglie, è come se voi con questo calore faceste esplodere la crema pasticcera, separando così i vari strati di pasta sfoglia. Ecco, il risultato forse possiamo immaginarlo come dei mazzetti formati da tanti coriandoli molto sottili. Possiamo immaginare, pensarla così, questa polvere? Certo, noi formiamo dei pacchetti, sì, molto sottili di fogli di grafene, e per darvi un'idea, noi formiamo dei pacchetti che vanno dai 2 nanometri agli 8 nanometri. Pensate che la barba di una persona media cresce con la velocità di 5 nanometri al secondo, tanto per darvi un'idea. Ok. Ecco, senta, brevissimamente, due o tre esempi di applicazione. Le applicazioni che seguiamo noi sono essenzialmente quattro. La prima è lo pneumatico, sia per le bici che per le auto. La seconda è nel campo tessile, nell'area delle antifiamma e dei tessuti cosiddetti intelligenti. La terza, fibra di carbonio, sì, dove aumentano notevolmente le caratteristiche meccaniche. E ultima, la purificazione dell'aria e dell'acqua. Grazie Cesareo. Prego, buona serata. Ci fermiamo qui e ci risentiamo domani.